Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che oggi vede la redazione in studio. Con me infatti Morena Moretti, non in qualità di redattrice ma di vicepresidente del Comitato Ricerca Suoni Pionieri, perché per novità abbiamo da segnalare, in realtà credo abbastanza importante. Sì, è una nuova mostra che stiamo organizzando come Comitato Ricerca Associazione Pionieri insieme all'Archivio Vinicio Berti e all'Associazione Stella Pina di Pombia, e la stiamo organizzando alla Sala Borsa. Si terrà dal 5 al 17 febbraio. Il titolo è Pinocchio, il burattino senza età, quindi sarà una mostra in due sezioni, una parte in sala coperta e un'altra nelle scuderie di Sala Borsa, e il giorno 6 febbraio alle ore 18 la presentazione della mostra stessa. Naturalmente tra gli organizzatori c'è anche Radio Città Fujiko e ovviamente la Biblioteca Sala Borsa che la ospita. Dunque fino al 17 del mese saranno queste esposizioni, che in realtà sono due versioni di Pinocchio, in qualche modo entrambe collegate alla realtà del pioniere. Esatto, la prima è il Pinocchio che uscì in 30 tavole nel 1954 sul giornalino del Pioniere, disegnato da Raul Verdini, che già era un collaboratore del giornalino, e con le filastrocche che raccontano la storia in maniera assolutamente originale di Gianni Rodari, che all'epoca era direttore di questo giornale per ragazzi. La scelta fu sicuramente vincente, perché questo Pinocchio non solo fu apprezzato, letto, assolutamente riconosciuto, anche molto bello proprio, ma poi venne anche ripubblicato negli anni successivi dagli editori riuniti in un librino proprio che si intitola Il Pinocchio. In questa mostra quindi prevede l'esposizione di 30 tavole, ogni tavola composta da circa 6 quadri, diciamo che sono 200 queste vignette fantasticamente appunto disegnate da Verdini, e che sono in sala coperta. E mentre l'altro protagonista della mostra è Vinicio Berti. Vinicio Berti ha lavorato per il Pioniere per lunghi anni ed è stato una colonna portante di questo giornale, e ha anche inventato altri personaggi, tra cui un personaggio che è quello di Chiodino, che assomiglia molto al Pinocchio di legno. Questo è una sorta di Pinocchio di metallo. Di Vinicio Berti però si presentano non delle vignette, dei fumetti, diciamo dei disegni, ma si presentano delle litografie, perché Vinicio Berti, molto legato a questo personaggio, al personaggio di Pinocchio, in occasione del centenario, cioè nel 1981 dell'uscita del libro di Collodi, volle dedicare al burattino queste 30 tavole che illustrano le vicende più importanti del personaggio. Insieme a queste 30 tavole ce ne sono altrettante che sono sempre litografie di commento alle tavole stesse, quindi una mostra ricchissima. Tra la sala grande, la sala coperta e la scuderia c'è un passaggio più stretto dove verrà proiettato anche un video. Sì, è una sorta di trade union tra le due sale, quindi la sala coperta e le scuderie, questo video, un video che è stato realizzato da Stefano Calanchi ed interpretato da Stefania Grassia. Un video che dura 40 minuti, ma naturalmente si potrà vedere anche solamente una parte, quindi anche ascoltabile. Quindi Stefania Grassia ha interpretato le filastrocche di Rodari. È nato un prodotto audiovisivo veramente divertente e molto fruibile. Di Pinocchio testa dura qui continua l'avventura. Al piangente figlioletto rifà i piedi il buon Geppetto. Giura adesso il burattino abbracciando il suo babbino. Per potervi compensare, tosto a scuola voglio andare. Cuce il vecchio un bel vestito, è di carta ma fiorito. Gli fa poi senza fatica un berretto di mollica. Per pagare l'ABC, la marsina, ahimè, sparì. Trema, ha freddo il legnaiolo, ma è felice il suo figliolo. Il giorno dopo. Mentre a scuola a precipizio va l'allievo a un cornovizio, d'improvviso echeggia e tuona una musica birbona. a godersi burattini con ronfrotte di bambine. Già Pinocchio pensa scaltro, andrò a scuola domani l'altro. Ma l'ingresso costa caro, come far senza denaro? Il monello lì per lì vende il povero ABC. Mentre a casa, freddo e fame, il suo babbo fa legname, va Pinocchio a divertirsi. Prima o poi dovrà pentirsi. Nella sala grande, peraltro, ci sarà anche un aspetto che credo che al CRAP interessi molto, di carattere pedagogico, perché sarà fruibile dalle scuole. Sì, sarà fruibile dalle scuole, la partecipazione di bambini e ragazzi che potranno visitare la mostra e insieme alle loro insegnanti, per aprire anche dei percorsi nelle scuole su questa storia, su questo personaggio. Quindi diciamo c'è la sezione didattica della Sala Borsa che si farà carico di proporre alle scuole questa mostra e questo prodotto, e inoltre l'audiovideo che lì si può vedere verrà poi messo a disposizione online per tutti gli insegnanti che vorranno utilizzarlo successivamente, anche dopo quindi la chiusura della mostra stessa. Non mancherà anche un supporto cartaceo, cioè un catalogo? Il catalogo noi lo riteniamo uno strumento importantissimo e fondamentale, perché intanto diventa una testimonianza di un'esposizione che noi abbiamo fortemente voluto appunto insieme agli altri protagonisti, ed è un catalogo che raccoglierà tutte le opere in mostra, e diciamo che verrà esposto a Bologna per la prima volta sia le tavole di Verdini Rodari che quella di Berti. Possiamo considerarla una prima nazionale. Consideriamo anche che le litografie di Berti non sono mai state esposte a Bologna, e addirittura le tavole di commento alle litografie di Berti furono esposte in un'unica occasione, che fu appunto quella del centenario e non a Bologna. Quindi diciamo che è anche una prima nazionale. I primi a cominciare questa avventura furono sicuramente i piemontesi dell'Associazione Stella Alpina, un'associazione che per lo più si occupa di memoria della resistenza, di valori costituzionali, ma ha avuto un occhio di riguardo anche per Pinocchio e quindi ne ha in qualche modo fotografato dal giornale tutte le puntate dedicate all'avventura del burattino, che sono poi la base delle immagini che vedrete nella mostra esposta in Sala Borsa. Allora abbiamo chiesto con Morena Moretti a Piero Beldì, che è un po' il portavoce dell'associazione stessa Stella Alpina, cosa è stato l'aspetto più importante da cui si è partiti. Mi ha colpito soprattutto le illustrazioni, perché era la prima volta che vedevo un Pinocchio raccontato oltre con il linguaggio di Rodari, ma anche con un'infinità di illustrazioni, perché ad ogni puntata c'erano 5-6 immagini che illustravano la storia di Pinocchio. Quindi ero affascinato soprattutto appunto dalle illustrazioni e poi naturalmente anche dal linguaggio usato da Rodari, per cui l'idea di trasferire in una mostra questo grosso lavoro per me è una cosa da fare. Ci ho perso un po' di tempo, però poi, perché bisognava trascrivere tutto il testo e magari cercare di migliorare le immagini, però alla fine insomma sono usciti una cinquantina di pannelli, adesso non mi ricordo più quanti, ma comunque mi sembra che sia un lavoro importante da utilizzare e portare nelle scuole, perché questo è l'obiettivo di questa mostra che noi abbiamo impaginato. La cosa principale che mi ha colpito erano le immagini, la quantità enorme di immagini, perché lungo tutto il racconto di Rodari non so quante, ma sono tantissime le illustrazioni e sono tra l'altro eccezionali, perché la qualità, come veniva rappresentato la storia, ecco questo un po'. È vero, perché è un Pinocchio originale, sembra un nuovo Pinocchio rielaborato, rivisto appunto sia da Gianni Rodari che da Verdini, ed è davvero una storia eccezionale, è una sorta di rielaborazione del Pinocchio collodiano, questo è assolutamente vero. Quindi nelle scuole secondo te è un materiale molto importante da utilizzare? Sì, sicuramente, anche perché in questi ultimi tempi abbiamo avuto dei contatti con insegnanti delle scuole elementari e penso che per il prossimo anno, lavorando in tempo naturalmente, potremo portare questa mostra in alcune realtà del nostro territorio. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Perché voi comunque avete già relazioni abbastanza strette con le scuole, lavorate spesso con le scuole, sul versante in questo caso in particolare della resistenza, vero? Sì. Noi nel territorio del Novarese, ma non solo, è anche del Varesotto, del Milanese, e così abbiamo molti contatti e abbiamo portato molte mostre con la tematica della lotta di liberazione, della resistenza, però anche questa è sicuramente un argomento che intendiamo portare, quindi i nostri legami con le scuole sono importanti per poi veicolare anche questa mostra. Non si scherza, non è un gioco. Fuoco, lui comanda e muove i fili, fa ballare i burattini. State attenti, tutti quanti, non fa tanti complimenti, chi non balla o balla male, lui lo manda all'ospedale, ma se scopre che i figli non ce l'hai, se si accorge che tu balla non lo fa. Nell'esposizione presente in Sala Borsa, ricordiamo dal 5 al 17 di febbraio, sarà per l'appunto visibile anche la parte legata all'opera di Vinicio Berti e il suo immaginifico Pinocchio. A questo punto una scheda su Vinicio Berti. Dopo la liberazione di Firenze nell'agosto 1944, prosegue per Berti la ricerca artistica in senso avanguardistico e, dal punto di vista dell'azione culturale, all'inizio del 1945, con altri amici fra i quali Brunetti e Caverni, realizza il giornale Torrente, per il quale disegna la copertina del primo numero. Entra a far parte come redattore del giornale Toscana Nuova, organo della Federazione Fiorentina del Partito Comunista Italiano, tramite le pagine del quale pubblica le tavole dedicate al Pinocchio di Collodi,

massimo rapitico d'arte del tempo, che era Ragghianti, li faceva esporre alla Strozzina, che era una sala di Palazzo Strozzi. Anzi, veniva puntualmente boicottato, tant'è che gli fu preclusa anche la Biennale di Venezia, a lui e in particolare a Gualtiero Nativi, che erano due artisti eccezionali dell'arte astratta dei primissimi anni 50, cosa che poi neanche volevo fare apposta, gli capitò anche al Pioniere, quando stavolta fu Rodari a difendere il Pioniere dall'attacco su Rinascita da parte sia di Deiotti che sempre di Togliatti. E là Rodari riuscì a, in maniera molto molto abile, con acutezza, a rimandare al mittente le accuse sui fumetti del Pioniere. Ritornando infatti poi alla mostra del 48, la cosa simpatica era, che poi simpatica proprio non era, ma è stato proprio la frase di Togliatti che, sbattendo braccio a Berti o a Nativi, gli disse che gli piacerebbe dipingere come quelli lassù. Tant'è che con il mio comitato scientifico, con a capo il professor Claudio Crescentini, abbiamo un arduo compito, quello di andare a riscoprire un artista, a sentire i più grandi artisti del Novecento italiano. E credo che tutti quanti conoscano uno dei più grandi artisti di arte astratta italiana, che è Emilio Vedova, che faceva parte del gruppo degli Otto, è uno degli artisti, insieme a Piero D'Orazio, altro grandissimo artista facendo parte del gruppo Forma 1, erano fra i due artisti più importanti italiani, ma fra gli artisti che di tutti avevano una corrispondenza continua con Vinicio Berti. Alla base della sua arte c'era la necessità di diffondere la cultura attraverso l'arte, perché secondo il suo messaggio, attraverso la cultura si potevano liberare i popoli. Questo era il mezzo per liberare i popoli, la cultura. Non era necessario altre situazioni. Tant'è che fu anche il suo modo di portare avanti la sua arte, oltre che i suoi fumetti. Bisogna che gli trovi un bel nome. Oh, attenzione alle proporzioni, i bambini hanno la testa più grande rispetto al corpo, eh? Infatti li chiamano zucconi. Oh, mi è venuta una bellissima idea, ho trovato Pinocchio, è un nome che gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i bambini. Se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?